Salvadanaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salvadanaio, buona giornata a tutti, buon inizio settimana da Deborah Rosciani, dalla redazione di Salvadanaio e Soldi e Dintorni, perché curiamo con la medesima redazione anche la trasmissione del mattino. Allora, abbiamo appena lasciato Essere e Benessere della nostra Nicoletta Carbone, ma noi continuiamo ad occuparci dei temi di salute legati alla famiglia e soprattutto al portafoglio. Allora, stanno nascendo in diverse città italiane delle strutture sanitarie che permettono di avere visite specialistiche a costi piuttosto accessibili per le famiglie. Sono esperienze che hanno suscitato una certa curiosità, perché ci si chiede intanto quale sia il livello dei professionisti che vi operano e come mai ci si possa permettere tale risparmio, visto che, per esempio, chiaramente vi do una media molto generale, si gravita intorno ai 60 euro per visita, per alcuni esami si può addirittura spendere la metà, cifre addirittura inferiori anche alle ticket che si paga per le strutture pubbliche. E invece, come sapete, insomma, è piuttosto noto che al di sotto dei 100 euro difficilmente uno specialista privato ci riceve. E allora oggi ci faremo intanto raccontare come funzionano e dove si trovano questi centri, con chi ne ha già sperimentato dei modelli che hanno avuto un grande successo nell'ultimo anno. Vi racconteremo l'esperienza di una struttura di Milano per capire anche se è possibile praticare queste vie anche in altre zone d'Italia. Però parleremo anche di un settore in particolare, le visite odontoiatriche. Già il mal di denti è uno dei dolori più insopportabili in assoluto. Quando si deve mettere in mano al portafoglio per curarsi, come sapete, i dolori triplicano. Certo, sono cure piuttosto complesse, hanno anche una, come dire, un ambito estetico non trascurabile, ma a volte sono talmente onerose queste cure che chi non se le può permettere rinuncia, trascura la salute della bocca anche per lunghi periodi, fino ad arrivare a fare anche di peggio, come andare nell'est Europa per farsi curare i denti, un fenomeno che, pensate, in Italia riguarda addirittura 20.000 persone. Ho trovato questo calcolo, non so se sia esatto, e comunque, insomma, migliaia di persone hanno la tentazione, spesso lo fanno, di andare addirittura fuori dai confini domestici per trovare chi li cura a prezzi accessibili. Ecco perché l'Associazione degli Odontoiatri Italiani ha pensato e realizzato delle tariffe calmierate in una iniziativa con il Ministero della Salute. Allora noi vi spiegheremo anche questa, quanto ammontano queste tariffe, come si fa ad individuare sul territorio il dentista che aderisce a questa iniziativa e soprattutto cercheremo di capire se abbiamo anche il diritto di fruire di queste agevolazioni tariffarie. Per cui tanti argomenti. Stamattina ovviamente vi invito sempre a vivacizzare la nostra trasmissione con i vostri interventi, chiamandoci all'800240024 o scrivendoci al 349-238-6666. I nostri ospiti di stamattina: saluto il dottor Luciano Balbo, presidente di Oltre Venture, che è una società specializzata in finanza etica, che ha ideato e realizzato il centro medico Sant'Agostino di Milano, già ribattezzato il poliambulatorio low cost. Dottor Balbo, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. E saluto anche, ringrazio anche il dottor Roberto Callioni, presidente nazionale dell'ANDI, l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani. Dottor Callioni, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho ricordato i numeri per intervenire. Intanto andiamo però anche a dare un'occhiata, come facciamo sempre, alla borsa, altri numeri, numeri che vanno in strade separate questa mattina in Europa, perché c'era un po' di preoccupazione sull'apertura di questa mattina dei listini del vecchio continente, visto che già venerdì i mercati avevano vissuto una giornata piuttosto pesante a causa della trimestrale comunicata da un colosso degli investimenti, JP Morgan. In realtà da un anno a questa parte il gruppo sembra aver brillantemente superato la crisi, perché gli utili sono praticamente quadruplicati, ma non in alcuni settori. Soffre il settore dei mutui, soffre il comparto delle carte di credito, e allora gli investitori sono tornati a manifestare un atteggiamento un po' guardingo nei confronti del ramo bancario americano. Infatti i titoli sono scesi tutti venerdì, portando a ribasso i listini e anche le borse europee. E oggi invece l'Europa attenta al riscatto, abbiamo rialzi di oltre mezzo punto percentuale a Parigi, Francoforte e Londra. Anche Milano era partita stamattina con un rialzo dello 0,6-0,5%, ha bruciato tutto, è passata in territorio negativo, adesso si aggrappa alla parità, stiamo parlando del FTSE MIB, il principale paniere, più 0,06%. Un'occhiata rapidissima ai titoli che stanno avendo il rialzo più forte: oltre un punto per Telecom, Exor Bulgari, schierita per Telecom sul fronte argentino, a quanto pare una pronuncia denuncia dell'antitrust impedisce adesso la vendita forzata della sua partecipazione nel colosso argentino, per cui per il titolo sembra una buona notizia, almeno a giudicare della reazione degli investitori. In ribasso invece abbiamo adesso, con un calo di mezzo punto, un bel gruppo di titoli: Intesa San Paolo, Pirelli, Atlantia, CIR, Mediolanum, il Banco Popolare, Mediaset e Banca Monte dei Paschi. Prezzi del petrolio in calo, intorno ai $78 al barile, non se ne accorge la benzina, tanto che, come abbiamo già anche raccontato nelle scorse settimane, domani Mister Prezzi ha convocato al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico sia i petrolieri che anche i pastai, per cui domani doppio tavolo per Mister Prezzi. Noi di questi argomenti peraltro torneremo a parlare domani mattina a Soldi e Dintorni. Ultima notizia: oggi la borsa americana è chiusa per festività, è il Martin Luther King Day. Lasciamo il mercato, andiamo al tema di oggi, affrontiamo, esploriamo questo nuovo modo di offrire assistenza sanitaria alle famiglie italiane. Sentiamo un po' come mai, dopo le vacanze e la cena, dopo gli alberghi e gli aerei, anche la medicina sta imboccando la strada del low cost. Visite specialistiche, esami del sangue, controlli oculistici. Tutto senza spendere più di 60 euro ed evitando liste di attesa infinite. Non si tratta di un miraggio, ma di una nuova realtà che, complice la crisi finanziaria, sta prendendo piede in Italia. Per fronteggiare le difficoltà, anche la sanità privata ha infatti imboccato la strada del risparmio. Poliambulatori, ambulatori specialistici, ma anche centri odontoiatrici. Dopo le vacanze, gli aerei e gli alberghi, anche la medicina, dunque, sembra puntare sul low cost. Certo, siamo ancora lontani da realtà come la Gran Bretagna, dove è possibile farsi otturare una carie tra le corsie di un supermercato, ma a circa un anno di distanza dalla nascita delle prime realtà nel nord Italia, i numeri sembrano decretarne il successo. Le ragioni sono molte. Da un lato, secondo alcuni, l'offerta pubblica non è sempre adeguata alla domanda. Dall'altro, il privato garantisce una maggiore efficienza organizzativa, ma presenta tariffe ormai economicamente insostenibili per numerosi cittadini. Non mancano però gli scettici, che, associando al concetto del low cost quello di basso servizio, preferiscono mantenere le vie tradizionali, specialmente quando si tratta della propria salute. E naturalmente, se si hanno le opportunità economiche, ognuno può fare chiaramente la scelta che vuole. Il tema è quando invece per curarsi comincia a diventare un problema per il bilancio familiare. Quindi credo che sia proprio questo l'ambito che, per esempio, questo centro medico Sant'Agostino di Milano, questo ambulatorio low cost, come è stato ribattezzato, come dicevo prima, volesse raggiungere, proprio questo obiettivo. Dottor Balbo, allora, in 10 mesi di attività, e noi l'abbiamo intervistata già un anno fa circa, quando il vostro centro era appena partito, in 10 mesi di attività, ho trovato questa stima, avete effettuato qualcosa come 9.000 prestazioni. Un risultato che si aspettava? Tenti e più o meno il doppio di prestazioni, quindi siamo solo i 7-8.000 prestazioni realizzate. Ma direi, noi sui temi che adesso lei ha introdotto abbiamo due gambe. Una, c'è un'area, come veniva detto, in cui il sistema sanitario nazionale, per scelta stessa del sistema, ha un limitato accesso all'odontoiatria, ma anche alla psicoterapia, alla logopedia, è molto limitato, o per reddito o per età, cioè una parte dei cittadini non ha accesso, o per parte di prestazioni. Qui è il mercato che la fa da padrone, quindi noi ci siamo proposti di fare un'offerta di mercato a prezzi più contenuti, o comunque mediamente inferiore al prezzo di mercato, e di qualità. In questo senso il centro, proprio perché ha dei senior, dei professori universitari, dei responsabili di specialità che lo hanno pensato e mandano i loro collaboratori, vuole dare una garanzia di qualità abbinata appunto a questo. Quindi basso intanto costo. Per cominciare, per chi solleva quell'obiezione, chiaramente voi reclutate del personale con tutte le cautele, con tutte le attenzioni possibili, non è sì, che diciamo chiaramente che lo facciamo, come dire, prendete il disoccupato, il medico certo. Disoccupato appena uscito dall'università, giusto per trovare un impiego certo. A questa figura. No, anzi lo facciamo reclutare, perché noi non ne saremmo in grado. Noi abbiamo in quasi tutte le specialità individuato una persona senior, che è o un direttore di specialità o qui a Milano, o un primario o un professore universitario, che oltre che a strutturare l'offerta, manda i suoi collaboratori, quindi è lui che sceglie le persone e lui diventa il garante della qualità, che è evidentemente una cosa molto importante. Benissimo, adesso abbiamo dato il primo, come dire, la prima parte dell'ABC del funzionamento di questo centro, però ho invitato anche il dottor Caglioni dell'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Come ho detto, il mal di denti è uno dei dolori più insopportabili, quando poi si deve mettere al portafoglio la mano per curarsi la bocca e qua i dolori triplicano. Pertanto, ben consapevoli di questa situazione e anche del grado di inaccessibilità spesso dei servizi di cura odontoiatrica appunto per molta parte delle famiglie italiane, allora Caglioni ha pensato appunto di sviluppare questa intesa con il Ministero della Salute proprio per proporre alle famiglie che ne avessero bisogno delle tariffe calmierate. Dottor Caglioni, voi siete partiti un po' prima rispetto al Centro Medico Sant'Agostino di cui abbiamo raccontato l'esperienza, anzi forse il protocollo, se non ricordo male, è stato siglato col Ministero della Salute nel luglio del 2008, poi l'operatività è partita qualche mese dopo. Come sta andando? Sì, sta andando bene, però se mi consente di commentare quanto raccontato sinora. Ma l'impressione che ho io è di grande perplessità. La salute non si compra e non si vende. La salute è un bene primario che si conquista. Attenzione al discorso della logica di mercato e della logica commerciale. Mi fa specie, lo dico senza alcuna polemica, perché il nostro interlocutore è un imprenditore come tale, chiaramente deve fare un utile su questa cosa, e quindi sarà interessante nel corso appunto della trasmissione farci raccontare che tipo raccontare di come ce l'ha fatta, perché voglio dire, mentre io sono presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ma quotidianamente faccio il dentista, quindi un rapporto assolutamente diretto con il paziente. Beh certo, ma anche noi ovviamente le possiamo chiedere come mai le è venuto in mente di come dire, cercare di trovare quelle soluzioni, perché è stata, come dire, una missione implicita che anche il dentista costa tanto, o no? Allora, visto che l'associazione è la più rappresentativa della categoria, con 23.000 dentisti distribuiti su tutto il territorio, è stato il Ministero della Salute, prima con il ministro Turco e successivamente con il ministro Sacconi a chiedersi, poi la sigla è avvenuta dell'accordo tra me e l'attuale ministro Fazio, è stato il Ministero a prendere atto della difficoltà che il pubblico ha per gli elevati costi che tanto nel privato, ma chiaramente soprattutto nel pubblico, per una questione complessa di costi storici, di ammortamento eccetera, di immaginare un welfare diverso. Quindi su 5 prestazioni essenziali che guardano sia il momento preventivo, che è determinante per prevenire la patologia odontoiatrica e quindi alla fine per risparmiare, e per altre prestazioni, quali per esempio la protesi, la realizzazione di protesi, la cosiddetta dentiera rivolta per gli edentoli, quindi soprattutto la popolazione anziana, che attenzione, in termini demografici sta aumentando sempre di più nel nostro paese, ha immaginato di andare ad un accordo su delle tariffe calmierate direttamente con la situazione di categoria più rappresentativa, appunto, come le dicevo, del paese. Questo proprio perché il ministro si è reso conto della difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale a dare una risposta all'ampia domanda che c'è sul territorio. Benissimo. Siamo ritornati in diretta a Salvadanaio, dove stamattina cerchiamo di capire come poter curare i nostri problemi di salute, magari attraverso le prestazioni di alcune strutture nuove che stanno nascendo nel nostro paese, che permettono di avere visite specialistiche a costi piuttosto accessibili per le famiglie, anche se le perplessità sollevate da tutti gli addetti ai lavori non mancano. Un tema del quale peraltro si occupava un'articolata inchiesta dell'Espresso di qualche settimana fa, curata da un collaboratore peraltro anche di Radio 24, Marco Lignana. Sanità privata all'ora dei saldi, da Genova a Parma in tutto il nord nascono centri che offrono prestazioni mediche a basso prezzo, ma come vi dicevo appunto non mancano le perplessità persino anche da parte di coloro che dovrebbero beneficiare di questa nuova tendenza a calmierare i prezzi in certi ambiti, perché a quanto pare ce n'è anche molto bisogno. Allora io stamattina ho con me Luciano Balbo, presidente di Oltre Venture, che è una società specializzata appunto in finanza etica, che ha realizzato il Centro Medico Sant'Agostino di Milano, che lavora proprio secondo questa filosofia, quindi per mettere visite specialistiche a prezzi assolutamente abbordabili per le famiglie, e Roberto Caglioni, presidente nazionale dell'Associazione Dentisti Italiani. Sentirei un paio di ascoltatori e poi tornerei a dialogare appunto con i nostri ospiti di questa mattina. Chiamateci pure all'800 24 00 24 e cominciamo con Giuseppe da Torino. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani e buongiorno ai suoi ospiti. Io mi sono posto questa domanda mentre ascoltavo la sua trasmissione. A parte il fatto che se se ne parla in quel contesto e lei se ne occupa, per noi è una garanzia assoluta. D'altro canto, il dottor sono così credibile e affidabile, grazie Giuseppe. No, ma la definiva mitica, quindi sicuramente sono d'accordo su questo giudizio. Siamo già garantiti dalla iniziativa che assume valore e serietà. Però ci stiamo chiedendo, calmierare questi prezzi, non è possibile fare un discorso dove, come per tutte le altre categorie professionali, ci possono essere delle tariffe alle quali tutti dovete fare riferimento? Perché ci hanno sempre detto che andare dal dentista è costoso per delle ragioni validissime, tipo la qualità del materiale, sì, che è costoso, tipo la prestazione stessa. Allora la domanda è: raggiungere un risultato che si porta verso una logica di maggiore accessibilità e a beneficio anche di una situazione che bene o male tutti più o meno poi finiamo dal dentista, mi chiedo se questa soluzione porta anche ad avere la tranquillità e la serenità che calmierare i prezzi significa anche non rinunciare alla qualità. Giuseppe, abbiamo capito perfettamente. Adesso chiederemo al dottor Balbo se gli odontoiatri che lavorano presso il suo centro usano porcellana di tipo diverso, appunto per poter, o resine di tipo diverso per poter ricostruire l'arcata dentaria appunto dei suoi clienti, e insomma dove si risparmia per potersi permettere appunto di praticare tariffe di questo tipo. Sentirei anche Stefano da Bologna, perché ho così chiamato gli ascoltatori, invitato gli ascoltatori a raccontarci anche di questa cosa, che per qualcuno dice per fortuna che abbiamo questa opportunità, invece a me turba molto di queste persone che addirittura ci sono addirittura dei tour operator che si organizzano per portare le persone che ne hanno bisogno in Ungheria e in Romania per farsi rifare completamente i denti. Stefano da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei, signore, e a tutti gli ospiti. Ci dica. Dunque, guardi, io le spiego velocemente. Avevo problemi in bocca, dovevo fare un grossissimo lavoro. Tramite un amico ho saputo di questi dentisti in Ungheria. Sono venuti due dentisti che periodicamente vengono a Bologna. Ho fatto una visita, ho portato una panoramica, mi hanno guardato velocemente, mi hanno fatto un preventivo. E in agosto sono partito e sono andato a Avis, sul lago Balaton, e mi hanno trovato l'appartamento per restare là. Insomma, morale della favola. Sono organizzatissimi, insomma. Organizzatissimi, pulitissimi, serissimi, sono teutonici, signora. E 10 giorni sono rimasto lì e ho fatto vari interventi, ho incapsulato 27 denti, per cui posso dire com'ero messo, in ceramica. Spesa, Stefano? Quanto ha speso in tutto per questa operazione? Adesso glielo dico subito. Il preventivo qui a Bologna era 17.000 euro. Sì. Lì ho speso, il preventivo che mi hanno fatto i dottori ungheresi a Bologna è stato di 5.200 euro, ho fatto tutto il lavoro, hanno visto che c'è stata una cosa che non hanno dovuto farmi, che prevedevano di dover fare, mi hanno fatto risparmiare 200 euro, ho speso 5.000 euro tondi, poi quando sono venuto via mi hanno dato anche una cesta con un cadeau dentro, che c'erano vini, ma il miele, c'era Stefano, poi la permanenza là ovviamente era tutto quanto omnicomprensivo questo compenso. No, la permanenza io pagavo 30 euro al giorno di un bellissimo appartamento su un parco che era meraviglioso, e insomma in 10 giorni mi hanno fatto tutto, e per Natale mi hanno mandato anche la cartolina con gli auguri. Benissimo, quindi siete anche diventati amici. Stefano, allora io non vorrei commentare questo, per carità, con tutto il massimo rispetto per chi in certi casi è addirittura costretto a intraprendere delle soluzioni del genere per curarsi, però dottor Balbo, da dove vuole cominciare? Cominciamo dalle perplessità espresse dal suo collega, dal dottor Caglioni, su questo modello di fare welfare. Che cosa ve ne viene a voi? Insomma, come fate a sostenervi visti i costi così bassi che praticate? Poi vediamo quanto bassi ha, perché non è che spendiamo appunto 2 euro per fare un esame. Il nostro riferimento è il prezzo medio di mercato nell'area di Milano e noi siamo largamente sotto. Il modo con cui riusciamo a farlo. Siete largamente sotto rispetto al privato, ma comunque quasi equiparati al pubblico come tariffe. Ma il pubblico io non lo considererei tanto, perché guardi, l'Istat dice che l'85% degli italiani va sul privato. Quindi l'accesso al pubblico è talmente limitato che non è su quest'area un'effettiva area di comparazione. Noi ci muoviamo, non abbiamo ancora raggiunto il pareggio, ci muoviamo in quest'ottica pensando di fare volumi importanti, quindi di ammortizzare molto la struttura che abbiamo creato, quindi non ci sono particolari segreti. Quindi in sostanza controllate anche i medici che operano presso di voi per verificare quanti... Quello che diceva il Presidente Landi è, certamente dice, certo, sono tutti privati, nel senso che noi tra l'altro abbiamo delle finalità sociali, ma comunque anche il dentista è un privato ed è un imprenditore, non dimentichiamocelo, non è un dipendente di nessuno. Il nostro però, quello che ci garantisce secondo me molto è il fatto che noi non paghiamo i nostri medici in percentuale sul fatturato, ma nel tempo che utilizzano, perché nella sanità privata quello che sta emergendo è che sempre più i medici sono pagati in percentuale del fatturato. Questo è un fortissimo incentivo all'accanimento terapeutico, a offrire cose più care che nello stesso quantità di tempo fanno fare più margine. E proprio questo meccanismo operativo che noi abbiamo dato è invece un incentivo a offrire anche soluzioni più economiche per chi non può permettersi per esempio l'implantologia, proprio perché il dentista è incentivato sulla qualità e sul tempo e non sul fatturato che fa. Quindi per noi questo è l'elemento che penso ci distingua rispetto agli altri operatori. No, tra l'altro privati. Quello che io volevo anche precisare è che stamattina non avrei avuto nessuna intenzione, non volevo neanche creare contrapposizione fra le due diverse realtà. Detto questo, è chiaro che esattamente come successo per i dentisti, dottor Balbo, forse anche, non so, i ginecologi piuttosto che gli psicologi, quindi altre categorie professionali si siano un po' sollevate, no, nel veder sorgere intorno a sé modelli di questo tipo, o no? Non lo so, perché appunto io credo che l'iniziativa dell'Andi sia un'iniziativa lodevolissima, no? Vuol dire, non è che la leggo come contrapposta, anzi la leggo come una necessità per allargare l'accesso da un lato e allargare il mercato dall'altro, perché sappiamo anche che anche per i dentisti oggi la situazione è meno facile. Quindi io credo che ci sia un'iniziativa che vada ad offrire più opportunità per gli utenti e anche più volumi possibili per i dentisti. Quindi, come per un'azienda, parola d'ordine all'interno del vostro centro è produttività. Come fate a verificare che la velocità e la produttività sia anche sinonimo di efficienza? Perché questa è una domanda ben precisa che mi pongono degli ascoltatori. Nel senso che la persona professore qui a Milano dell'università ha stabilito per ciascuna prestazione uno standard temporale, quindi non ci sono accelerazioni e le persone i dentisti che operano da noi sono seguiti attraverso questo standard, quindi oggi quello che noi garantiamo è una qualità standard, che è la cosa importante rispetto magari a dover scegliere tra vari dentisti che non si conoscono, perché purtroppo l'utente fa fatica comprensibilmente a scegliere non avendo degli elementi di conoscenza specifica. Benissimo. Dottor Caglioni, posso tornare da lei intanto per commentare anche questa faccenda di questi... Dottor Caglioni? Sì. Mi sente, si era distratto, stava commentando con qualche suo collega. Ho ascoltato tutto. Vorrei sentire ovviamente poi come funziona anche la vostra convenzione col Ministero della Salute, che questo è quello che ci interessa di più, se sta ovviamente ancora andando avanti e come si fa ad intercettare sul territorio. Sì, però le chiedo anche un commento sull'esperienza di questo ascoltatore, e ci stanno chiamando in tanti che prendono, si vanno a fare, loro addirittura la percepiscono quasi come una vacanza e ritornano con un sorriso più bello da questi luoghi di villeggiatura in Ungheria, in Romania. Poi chiaramente ho capito, insomma, io non ho nessun tipo di elemento per poter giudicare il lavoro professionale, perché non conosco là che tipo di qualità professionale abbiano i dentisti, per carità del cielo. Giustamente però l'ascoltatore dice, fra 17.000 euro che avrei dovuto spendere in Italia e 5.000 là, la differenza è enorme. Guardi, il tempo evidentemente è tiranno e certamente molto limitato per dare queste risposte, però insisto a dire che da una parte c'è un problema assolutamente verissimo, è quello della necessità della popolazione italiana di certe fasce di reddito di non riuscirsi a curare in un contesto pubblico del nostro paese per le difficoltà che ci sono, le lacune che ci sono, e quindi a fronte degli elevati costi che l'odontoiatria tanto nel pubblico che nel privato ha, devono trovare delle soluzioni, e purtroppo spesso cadono nella rete di situazioni, ha indicato lei, dei tour operator, che le sembra una cosa anche solo a pensarci, che organizzano queste trasferte all'estero per cercare di risolvere, ripeto, senza dubbio delle difficoltà reali, però il problema è la qualità della prestazione e un aspetto etico che coinvolge anche delle sperimentazioni a livello italiano. attenzione, la continuità terapeutica, ma stiamo scherzando, ho sentito parlare di produttività, quindi degli risvolti economici rispetto a un bene salute dove un paziente deve andare dal proprio dentista, dal proprio medico, dal proprio odontoiatra e essere curato nel tempo per vedere la dinamica della patologia, per poter risolvere dei problemi che possono insorgere. Quel paziente che è andato all'estero a farsi curare, nel caso di complicanze, nel caso di problematiche anche legali insorgenti, come fa quando il foro competente? Infatti il problema è quello. Poi ammettendo anche che magari la qualità del lavoro sia stata eccellente, nel momento in cui sorgono dopo un anno problemi, perché tutto può capitare, che un dente si scheggi, ma può capitare anche qualcosa di più serio, il tema è andarli appunto a ripescare, questi professionisti che ci hanno fatto il lavoro. Poi magari infatti, tutto può accadere. Per quanto riguarda l'accordo stipulato con il Ministero, sono 6.000, oltre 6.000 dentisti su tutto il territorio italiano che hanno aderito. Dentisti naturalmente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e dell'OCI, che è un'associazione di dentisti cattolici, e ripeto, sta avendo un successo. Naturalmente qui è legato un discorso di reddito, nel senso che possono aderire coloro che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro ISEE. E naturalmente per calcolarlo, oltre che naturalmente i sindacati, le associazioni di categoria, basta andare sul sito www.andi.it oppure sul sito del Ministero della Salute per trovare tra l'altro l'elenco dei nominativi dei dentisti che hanno aderito volontariamente a questo accordo. Tra l'altro, sito dell'Andi, esattamente il link è www.obiettivosorriso.it se non l'avete modificato, dottor Caglioni. Benissimo. Ancora un paio di ascoltatori prima di ritornare a chiacchierare con Luciano Balbo e Roberto Caglioni. Allora, Matteo dalla provincia di Ascoli Piceno, benvenuto a Salva Danaio. Sì, buongiorno, benvenuti e buongiorno anche ai suoi ospiti. Grazie. No, io volevo portare una testimonianza diretta perché per motivi di salute varia seguo mia madre da diversi anni, la accompagno in diversi centri specialistici e non. Beh, devo dire che da qualche anno ho avuto la fortuna di incontrare nel nostro cammino uno studio di medici che non penso che sia una sorta di precursore di questa nuova tendenza, di medici che operano con prezzi molto al di sotto del, io dico anche meno del 50% del prezzo di un altro specialista. E lei, Matteo, mi scusi, ha la sensazione quando fanno le visite alla sua mamma che siano sbrigativi proprio perché devono rispondere a delle logiche di produttività nel corso della giornata, oppure è soddisfatto? Guardi, devo essere sincero, perché poi soltanto le testimonianze reali portano un sale alla discussione. Io ho girato tanti medici, io ho trovato davvero dei professionisti seri ed onesti e ho trovato professionisti molto molto annunciati. Non si può generalizzare, dice lei, insomma. Non si può generalizzare, con veramente che a prezzi davvero sbrigativi in discorso negativo sono stati molto sbrigativi, ma molto sbrigativi intendo 15 minuti, anche il rapporto umano da un punto di vista davvero. Sì, come però questo dottore, un otorino, uno di questo studio, un otorino, un giorno proprio parlando di questo, perché la visita completa che durava oltre 45 minuti con tutti gli strumenti, avevamo fatto altre visite, quindi sapevamo valutare gli strumenti, ci è costata 50 euro. Ricevuta, effettuata senza essere richiesta, perché qui si aprirebbe un altro capitolo che noi ben sappiamo, che il problema diffuso dell'evasione fiscale tra i professionisti medici è una cosa che alla gente non piace. Esatto, tanto è vero, Matteo, guardi, io adesso la voglio salutare non per maleducazione, però abbiamo capito la sua esperienza, bisognerebbe vedere anche se questo centro opera secondo la filosofia del centro Sant'Agostino di Milano, ma ammettendo in sostanza che sia un'esperienza assimilabile, l'abbiamo capita, per cui la ringrazio per la sua testimonianza. Però il tema che ha affrontato lei, l'ultimo punto, che ha definito una nota estremamente dolente, la vorrei riaffrontare anche con Riccardo dalla provincia di Varese, perché, come dire, si può anche arrivare al punto di trattare il prezzo con il dentista. Io credo che adesso Caglioni, non appena riprende il microfono, me ne dirà di tutti i colori, però anche questa insomma è una pratica che non vorremmo vedere, vorremmo essere anche sereni piuttosto che addirittura trattare sul prezzo prima di curarci, perché tra l'altro con il dolore in bocca non è che siamo neanche molto lucidi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Debra, qui non è questo di trattare, è questione che quali sono i margini di guadagno dei dentisti, perché mia moglie, dovendo sostenere un lavoro importante, ovviamente che non vado subito da solito al dentista, ma li metto in confronto un altro. E mi faccio fare il preventivo, non da solito, da un altro dentista, il preventivo è di 18.000 euro. Sì. Lo stesso chiedo di fare il preventivo al mio solito dentista, mi chiede 36.000 euro. Ah, però. Al che io, guarda, che ti do 2 giorni di tempo, dato che mia moglie voleva fare lavoro dal solito dentista, però ti do 21.000 euro, il lavoro è sempre lo stesso. Lei cosa crede? Accettato? Ha accettato senza. Allora, come sta storia qui da 36 anni? Che se lo viene a conoscere Caglioni, secondo me lo sgrida anche. Riccardo, grazie molte per la sua testimonianza. Allora, ricominciamo da Roberto Caglioni, Associazione dei Dentisti Italiani. Adesso non voglio scivolare nel terreno, che so che non fa piacere neanche a lei, della storia della, come dire, dell'evasione fiscale, perché non ci interessa. Comunque sappiamo benissimo quello che accade, che insomma magari il preventivo di un certo tipo, se al dentista proponiamo di pagare una parte in nero, ci abbatte notevolmente il prezzo. Però il caso di Riccardo pure mi sembra piuttosto clamoroso. Lei, che non piace sentir parlare di, come dire, un'assistenza odontoiatrica come qualcosa che ha attinenza con il profitto e la produttività, qui è assolutamente vergognoso quello che ho ascoltato. È molto semplice, basta fare una segnalazione all'ordine professionale e questo sanitario immediatamente viene richiamato, naturalmente va sottoposto a un contraddittorio con il paziente, perché evidentemente questo va a detrimento dell'immagine della categoria. Io naturalmente non posso garantire nulla, può accadere di tutto, però questi casi all'ordine, allora lo si va a vedere, perché i saldi nella sanità italiana privata o pubblica che ci sia non si possono stare. No, però voglio dire, Presidente, per carità, se una persona è cliente di un dentista magari da tutta una generazione, poi lì il paziente, esatto, sì, infatti cliente non le piace, però voglio dire, si può fare anche quello, non è che si possa stare a discutere se un dentista magari, non dico uno sconto che ci debba andare in... L'associazione naturalmente ha fatto degli accordi con principali istituti di credito al consumo. Naturalmente tutti noi ci rendiamo conto, anche perché l'ha già accennato in precedenza, sono in grave difficoltà anche per una serie di situazioni pleurodontoiatriche, libera circolazione di professionisti con l'ara falsa più o meno legittima. Naturalmente il cittadino italiano, dovendo fare delle scelte con la crisi economica esistente, purtroppo negli ultimi mesi tende a non curare più un bene importante come la salute orale, per cui anche gli dentisti sono in crisi come tutti gli altri liberi professionisti. Quindi, per agevolare il paziente, certamente c'è sempre stata la disponibilità ad andare incontro a una rateizzazione piuttosto che altre facilitazioni, ma questo sempre nell'ambito della correttezza. D'altro canto, il Ministero delle Entrate sugli studi di settore dice che su 100 euro di ricavo di uno studio dentistico, 60-70, a seconda evidentemente se lo studio si trova in grandi centri del nord piuttosto che nel sud, vanno nelle spese, quindi un utile del 30-40 per rispondere al paziente che appunto prima parlava, che naturalmente vanno assoggettate alle tasse e quant'altro. Questo viene certificato dall'ufficio entrato. Benissimo, no, intanto volevo anche rispondere ad un paio di ascoltatori, non perché io sia una specialista del settore, ma banalmente perché alcuni lavori denti li sto facendo anch'io. C'è chi ci scrive, insomma, per una capsula che viene fatta a costo medio 150 euro viene ricaricata 10 volte perché magari va adattata alla bocca, ma a parte questo c'è un impianto da costruire per inserirla, e io onestamente non è che mi farei mettere le mani in bocca da tutti quanti, cerco anche insomma una persona che sappia fare il suo lavoro. Chiudo con Luciano Balbo, Centro Medico Sant'Agostino, ha in mente di intraprendere altre iniziative di questo tipo in Italia, dottor Balbo, visto il successo che... Noi stiamo consolidando la nostra esperienza, l'idea direi di sì, io credo che... dei centri come i nostri dovrebbero soddisfare non solo la domanda a prezzi calmerati, ma anche una garanzia di qualità. Oggi è difficile muoversi, soprattutto per esempio nell'area odontoiatrica, a capire a chi si va in mano, no? Perché ci sono tante persone bravissime, onestissime, e altrettanto meno, o qualcheduna meno. Quindi l'idea nostra è che si possa affermare un marchio, una garanzia di qualità legata ad un approccio che noi leggiamo etico, non sociale, sociale proprio perché non abbiamo un obiettivo di profitto. Prenotando una visita da noi, perché poi il tema è anche quanto bisogna aspettare per avere lo specialista che ci serve, dottor Balbo, lì insomma. Ma il cliente... i tempi sono ridotti, vanno da una settimana a due settimane. Tra l'altro volevo solo aggiungere una cosa: nell'area dove invece il sistema sanitario nazionale è presente, tutte le visite specialistiche, la nostra proposta, che è diciamo superiore al ticket ma inferiore a quella al prezzo di mercato, non è solo una soluzione del tema code, ma è anche il fatto che oggi quest'area, che è l'area più critica del sistema sanitario nazionale perché la domanda è molto forte, il tempo visita si è molto ridotto. E nella specialistica di base, di primo livello, la relazione medico-paziente, l'univocità medico-paziente, se non ha adeguato spazio, la qualità scende, perché non è solo una qualità tecnico-professionale, ma una qualità di relazione. È un tema comunque, un settore molto delicato da toccare, io me ne rendo conto. Abbiamo affrontato forse per la prima volta a Salva Danaio un tema di questo tipo. Non era il nostro obiettivo dare delle ricette valide per tutti, ma sollevare l'attenzione intorno a delle realtà appunto che stanno prendendo piede, per cui è bene avere gli occhi sempre ben aperti intorno a quello che ci circonda. Io ringrazio anche l'ascoltatore che ci ha detto, visto che l'ho trattato voi, che lo trattate voi, per me già tutto ciò di cui parlate è patente di qualità. Grazie molte. Io saluto Rino Dall'Ecco, che non riesco a far intervenire e voleva raccontarci di un'esperienza in Francia. Ringrazio però soprattutto Luciano Balbo e Roberto Caglioni per essere stati con noi. Magari ci ritorneremo più avanti su questi temi, visto che sono tanto delicati per gli ascoltatori. Intanto però Salva Danaio torna domani. Vi auguro una buona giornata. Salva Danaio.